con Alberto Barbieri di Medici per i Diritti Umani per presentare il report Distruzione delle condizioni di vita, un'analisi sanitaria del genocidio di Gaza, rapporto ad opera di Physicians for Human Rights Israel. Ben trovato. Buonasera, buonasera. Che Partiamo da Medici per i Diritti Umani. realtà è? Medici per i Diritti Umani è un'organizzazione medico-umanitaria indipendente, ha sede a Roma, che ha come obiettivo quello di portare aiuto sanitario alle popolazioni vulnerabili nelle situazioni di crisi in Italia e nel mondo. In Italia lavoriamo per esempio con migranti e rifugiati, all'estero siamo impegnati in paesi come l'Ucraina oppure appunto i territori occupati palestinesi o per esempio in Africa e in Niger. Passiamo al Report, come si compone? Intanto noi abbiamo tradotto in italiano la versione inglese perché lo riteniamo un rapporto di grande importanza per comprendere quello che sta accadendo nella striscia di Gaza. Il primo aspetto di assoluto rilievo, non l'unico, ma sicuramente il fatto che questo rapporto è il primo realizzato da un'organizzazione della società civile israeliana che riconosce senza mezzi termini che quello che sta compiendo oramai da quasi 2 anni nella striscia di Gaza e a tutti gli effetti un genocidio. E per documentare questo si avvale di una documentazione minuziosa e una rigorosa e dettagliata analisi dei fatti. Leggere questo rapporto e l'impressionante sequenza di atti di guerra mirati che ha portato sostanzialmente alla quasi totale distruzione del sistema sanitario di Gaza è sicuramente un'esperienza traumatica, angosciante, ma noi riteniamo tuttavia necessaria, appunto, se si vuole conoscere e capire quello che sta succedendo. Quindi è un rapporto sicuramente che si basa, e questo è un altro aspetto di interesse per Medici per i Diritti Umani, si basa su un'analisi che esamina le violazioni dei diritti umani, i crimini di guerra e i crimini contro l'umanità attraverso il degrado sistematico delle condizioni sanitarie. Questa analisi assume ovviamente che la salute sia un indicatore chiave della sopravvivenza di un popolo e quindi attaccare sistematicamente la salute pubblica equivale sostanzialmente alla distruzione delle condizioni di vita, che è uno degli elementi costitutivi per poter affermare che si tratti di un genocidio, di un crimine riconosciuto dal diritto internazionale. Sostanzialmente il rapporto, appunto, attraverso una documentazione molto rigorosa, conclude che quello che è in atto nella striscia di Gaza da parte di Israele è un genocidio e corrisponde attraverso 3 fattispecie specifiche, che sono quella appunto delle uccisioni di massa, purtroppo secondo anche stime piuttosto così prudenti, oltre 60.000 civili hanno perso la vita dall'inizio dell'offensiva israeliana, con una percentuale altissima, circa 18.000 minori, bambini e adolescenti. Il secondo criterio è la compromissione delle condizioni fisiche e mentali di un gruppo colpito e il terzo elemento è proprio quello della distruzione delle condizioni di vita. Ecco, questi 3 elementi ci sono 3 fattispecie che possono configurare il reato di crimine internazionale di genocidio. L'altro elemento importante su cui il rapporto si concentra, con una ricca documentazione, l'intenzionalità, cioè i danni che ha provocato la popolazione civile non sono effetti collaterali di un'offensiva militare, ma rientrano in una strategia mirata proprio a distruggere parte o interamente la popolazione di Gaza. In questo quadro, sia le strutture sanitarie che il personale sanitario sono obiettivi. Sono assolutamente degli obiettivi, infatti appunto il report documenta la distruzione deliberata delle strutture sanitarie, ospedali, ambulanze, cliniche, tutte le situazioni e gli episodi ripetuti di negazione dell'accesso alle cure mediche o di accesso all'assistenza umanitaria per la popolazione di Gaza, messe in atto dalle forze armate israeliane. L'uso della fame e delle malattie come strumenti di guerra, l'impatto devastante che tutto questo ha avuto su neonati, bambine, donne e pazienti vulnerabili, il divieto di evacuazione di malati e feriti e, per ultimo, ma non per ultimo, ovviamente per importanza, la persecuzione e l'uccisione degli operatori sanitari. Sono ad oggi documentate circa 1.600 operatori sanitari che sono stati uccisi dall'inizio dell'offensiva e oltre 300 incarcerati. Quante sono le strutture internazionali che operano all'interno della striscia? sicuramente sono poche e operano in condizioni di estrema difficoltà. Per quanto riguarda le strutture sanitarie palestinesi, cioè gli ospedali, la maggior parte di essi sono, se non quasi tutti, oramai non funzionanti. Questo ovviamente configura una tragedia immensa per le persone che hanno bisogno di assistenza sanitaria e per tutta la popolazione civile di Gaza. Medici per i diritti umani, come si sta muovendo in proposito? Noi collaboriamo con Physicians for Human Rights Israele e con altre organizzazioni palestinesi da tempo. Purtroppo la nostra operatività a Gaza attraverso i nostri partner da quando è iniziata l'offensiva si è interrotta. Continuiamo a sostenere gli interventi invece e le cliniche mobili sanitarie in Cisgiordania, nel West Bank, dove si sta consumando un altro dramma, perché i territori tolti alla popolazione civile palestinese, l'aggressività dei coloni israeliani è ogni giorno maggiore, e questo nel silenzio anche dell'informazione internazionale e di fronte all'inerzia delle istituzioni internazionali. Infatti direi che un altro punto importante di questo rapporto è proprio la denuncia della sottovalutazione della gravità della situazione da parte della comunità internazionale. E quindi il rapporto, che è consultabile sia nella versione inglese sia nella traduzione italiana sul nostro sito www.medicipericidirittiumani.org, si conclude con un appello alla comunità internazionale affinché intervenga, perché oramai purtroppo non è più possibile prevenire il genocidio, per questo è già in atto, ma per fermarlo il prima possibile. È un appello in particolare a tutta la comunità medica e scientifica internazionale perché si mobiliti in supporto e a sostegno di tutta la popolazione civile di Gaza e degli operatori sanitari palestinesi che si trovano ad operare in condizioni di estremo rischio, a rischio addirittura della propria vita o comunque di conseguenze molto gravi. Il rapporto intitolato Distruzione delle condizioni di vita, un'analisi sanitaria del genocidio di Gaza. Un saluto e un ringraziamento ad Alberto Barbieri dell'organizzazione Medici per i Diritti Umani che lo ha tradotto e messo a disposizione. Grazie a voi, grazie mille.